È stato detto, Alfred Quinn, Come interpretare la Bibbia. IBA Edizioni 1997, pag. 49, che le parole sono le unità di pensiero e i mantico testamento toni della costruzione concettuale. Ogni studio della scrittura deve di conseguenza cominciare da uno studio delle parole. Molto probabilmente questa verità non è stata presa sul serio, perché ancora oggi il predicatore medio della Bibbia, basandosi su certe parole, costruisce ragionamenti e dottrine che non corrispondono al senso vero e proprio originariamente attribuito loro dall'autore. Com'è possibile trarre questa conclusione? Chi sono io da dire che altri usano le parole bibliche capendole dal loro vero significato? Non potrebbero affermare altrettanto anche gli altri a mio riguardo? Certo, tutto è possibile. Ma, come si è sempre detto, il senso biblico delle parole non è definito dal vocabolario, il quale, seguendo i progressivi mutamenti culturali, ne cambia di pari passo il significato. Ma sono gli stessi scrittori biblici a fissare il senso delle parole da loro usate. Perciò, le parole che troviamo nella Bibbia devono essere interpretate o comprese alla luce del significato dato dagli stessi scrittori biblici. In definitiva, la scrittura si interpreta con la scrittura. Una di queste parole, e che ha dato filo da torcere per essere compresa, è certamente pentirsi o pentimento. A dire il vero non è la parola in sé a costituire un grattacapo, ma il fatto che sovente la si riferisca a Dio e, precisamente, quando la Bibbia dice che Dio si pente, dove sta il problema? Come spesso succede, sono i nostri presupposti a impedirci di comprendere certe verità, e al riguardo, la maggioranza dei credenti in Cristo parte dall'idea che Dio sia immutabile, cioè che non muta e che non può mutare o cambiare. Ciò che ha decretato avverrà. Come conciliare allora il fatto che nella Bibbia Dio si presenta come una divinità mutevole? A creare maggiore difficoltà è che nella Bibbia è scritto che Dio non è un uomo perché debba pentirsi. Numeri 23.19. Tuttavia, poi leggiamo decine di volte che si pente. E poiché la scrittura non afferma verità contraddittorie ma solo verità opposte, come interpretare o comprendere che nonostante Dio sia immutabile, può anche pentirsi, cioè, secondo la definizione del dizionario, provi dolore o rimorso per ciò che è o non è stato fatto. Può Dio essere insoddisfatto, può rammaricarsi, può cambiare parere dopo che ha deciso una cosa. Se così, com'è possibile parlare di un eterno e immutabile proposito di Dio o della sua aseità? Per capire rettamente il senso etimologico del verbo pentirsi, è opportuno leggere la testimonianza personale narrata dal profeta Geremia nel suo libro, una testimonianza che non contiene nulla di enigmatico come fanno di solito i profeti e che per comprenderla non occorre essere grandemente eruditi, per cui anche l'incolto con mezzi ordinari può arrivare a coglierne il senso in modo sufficiente. La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo «Alzati e scendi alla casa del vasaio», e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio, ed ecco, egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così, cominciando da capo, egli fece con essa un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo, O casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno. Ecco come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa di Israele. Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di sradicare, di abbattere e di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io, MIPE Nuovo Testamento, ho del male che avevo pensato di farle. Altra volta, riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di edificare e di piantare, Ma se quella nazione o regno fa ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io, MIPE, Nuovo Testamento ho del bene, che avevo promesso di farle. Perciò ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. E di, così dice l'Eterno, ecco io concepisco contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascun di voi dalla sua via malvagia ed emendate le vostre vie e le vostre azioni. Ma essi dicono, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del proprio cuore malvagio, Geremia mettendo in evidenza il suo comportamento nei confronti dell'uomo che ha creato, rivelando di avere dei piani, dei progetti precisi, di essere sommamente libero di fare tutto ciò che gli... Due verità che non si contraddicono ma che si completano. Perciò occorre che una verità non annulli l'altra. Che l'Eterno sia sommamente libero di fare ciò che decreta nella sua sovrana volontà non vi sono dubbi. Ma neppure ve ne sono in questa esperienza del profeta Geremia nella quale l'Eterno ha deciso nella sua perfetta giustizia e nella sua santa volontà di adeguare le proprie scelte al comportamento dell'uomo. E questo ragionamento o verità è racchiuso nel verbo che Dio stesso usa. Pentirsi. Egli ha detto di pentirsi qualora, avendo deciso del male verso una nazione, essa però, in seguito riconosca la propria colpa, così come ha detto di pentirsi se avendo promesso del bene. Ad una nazione, questa poi non si comporti rettamente. Dunque, non è vero che l'Eterno sia immutabile. Non è sempre vero che, una volta decretata una sentenza, quella rimanga. Ma dalla parola di Dio possiamo e dobbiamo trarre la conclusione che i suoi verdetti o giudizi sono mutabili. Zaccaria 3.1.5. Anche se resta pur sempre vero che Dio è immutabile. Giacomo 1.1.7. Isaia 31.2. Questo lo vedremo fra poco. Per ora dobbiamo comprendere il significato dell'atteggiamento di pentimento dell'Eterno, vista nell'indiscutibile realtà. Un altro episodio ci aiuterà a dare una definizione corretta. Il valoroso soldato di nome Saul, figlio di Chis, fu scelto dall'Eterno per essere re. Ma a causa della sua infedeltà alla chiamata, l'Eterno così disse a Samuele, «Io MIPE e Nuovo Testamento ho di aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini». 1 Samuele 15.1. Per questo Samuele disse a Saul che l'Eterno lo aveva rigettato come re e aveva scelto uno migliore di lui. 1 Samuele 15.28. Poi aggiunse, «Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pie Nuovo Testamento. Egli infatti non è un uomo perché debba pie Nuovo Testamento IRSI. 1 Samuele 15.29. Infine, poco più avanti, lo scrittore termina dicendo, «E l'Eterno si pie Nuovo Testamento e di aver fatto Saul re di Israele». 1 Samuele 15:35. Dunque, in questo episodio viene detto due volte che l'Eterno si è pentito, tuttavia poi a mo' di giuramento si afferma che egli non è un uomo che si pente. Al di là dell'opinione che possiamo avere, dobbiamo riconoscere che chi ha scritto questo episodio non era un matto o uno scemo da contraddirsi in modo così evidente. Quindi la conclusione più evidente è che il verbo pentirsi abbia almeno due significati. Il primo significato ci rivela l'eventualità che l'Eterno Dio cambi. Programma, opinione, piano, abbandoni il proposito o intenzione, come leggiamo nella Bibbia. Diodati in Esodo 32.14, lo stesso verbo in ebraico lo troviamo in Gesse 6.6, 2 Sam 24.16, 1 Cron 21.15, Ger 26.19, Giona 3.10. Il secondo verbo, invece, è riferito al fatto che nonostante tutto, nonostante cambi opinione di fronte ad una data circostanza, i suoi propositi divini, le sue promesse eterne, i suoi doni illimitati sono immutabili, non condizionati dal comportamento dell'uomo. Perciò quando leggiamo che l'Eterno non muta, si riferisce al secondo significato, Malachia 3.6, una spiegazione in armonia con la rivelazione di Dio. Come conciliare allora la verità che Dio è immutabile, che non dipende dalla creatura, quando nello stesso tempo leggiamo che l'Eterno si lascia condizionare dal comportamento dell'uomo al punto da dire «Sono stanco di pentirmi, Geremia 15.6. Come è possibile trovare un punto d'incontro tra ciò che è scritto nel libro dei Numeri 23.19? Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola, e ciò che troviamo scritto nel libro dell'Esodo 32.14, il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo, o come leggiamo nella versione Diodati l'Eterno cambiò intenzione, oppure il Signore abbandonò il proposito, come è scritto nelle edizioni paoline. La risposta per me è sempre quella. Dobbiamo distinguere il termine Dio dal termine Eterno, o Yahweh, secondo l'originale ebraico. Chi vede due sinonimi intercambiabili nei termini Dio e Eterno, per forza di cose si trova impacciato ad armonizzare la verità che Dio è immutabile e che l'Eterno muta. Ma se nel termine Dio noi per lo più ravvisiamo la Trinità nei suoi propositi eterni, e invece nel termine Yahweh o Eterno ravvisiamo la persona di Cristo, allora sono comprensibili queste due verità opposte. Fin dall'eternità Cristo ha scelto di relazionarsi con l'uomo. La persona del Padre lo ha mandato per essere il mediatore tra Dio, la Trinità e l'uomo. In armonia quindi con il Padre e lo Spirito Santo, il Figlio ha scelto di avere una relazione umana con l'uomo, perciò la divinità che ha parlato ai credenti dell'antico patto era Cristo e si relazionava a livello umano, se così si può dire. In definitiva, quando Yahweh parlava ai credenti e ai profeti, parlava anche come il Dio immutabile, autosufficiente, Geremia 50.4-5, ma spesso si relazionava come il Dio fattosi uomo, anche se il corpo umano lo ebbe solo dalla Vergine Maria. Solo così poteva ragionare con l'uomo, poteva invitare il suo popolo dicendo «Venite e discutiamo insieme». Isaia 1.18. È possibile discutere con chi ha già deciso una cosa in modo irrevocabile? O l'Eterno? Dio si prende gioco di noi, oppure in un qualche modo è possibile che cambi idea. E questo cambiare idea è illustrato appunto con il vocabolo pentirsi, un termine tipicamente umano, secondo l'affermazione della scrittura stessa, il quale è a questo punto più che appropriato al Dio, che si è abbassato al livello dell'uomo per poter comunicare con la sua creatura. La grandezza del Dio Trino è stata proprio nell'aver creato un essere vivente simile a lui, capace di adattarsi alle circostanze. Questo rende ancora più grande l'immutabilità di Dio. Luglio 2010. Ellero,